Terza parte di 24 mattino, sono le 8:17 minuti e 45 secondi, al microfono sempre Simone Spezia. Tra poco alle 8:30 parleremo dei giovani, ossia di chi ha pagato il prezzo più alto di questa crisi da Covid. I contratti a termine, i lavoratori autonomi che sono rimasti senza lavoro sono in gran parte loro. Sono loro che hanno sofferto di più il blocco dell'attività scolastica, il blocco dell'attività universitaria, una carenza anche di socialità, di formazione. E mi fa piacere se vorrete portare le vostre esperienze all'800 24 00 24 o al 349 238 6666 con i vostri WhatsApp audio, con le vostre voci, con SMS, WhatsApp, le vostre esperienze e anche le vostre riflessioni su tutto questo. E però questo è il momento della chiacchierata quotidiana con Paolo Mieli, e anzi, se volete parlare con lui, i numeri sono sempre gli stessi, Caro Paolo, buongiorno, eccoci, come stai? Buongiorno, eccoci, bene, io benissimo. Bene, ottimo, ottimo. Vorrei partire con te da una voce, questa qua. Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene, lo trovo in forma. Bravo. Grazie. Silvio. Grazie di cuore, auguri. Flavio Briatore è il principale accusato, caro Paolo, in questo momento di aver contagiato l'ex presidente del Consiglio. Diciamolo subito, io sono convinto che il contagio non l'abbia portato Briatore, però certo questo agosto-settembre è il bimestre nero per Briatore, perché lui era arrivato in Sardegna tutto baldanzoso a litigare col sindaco di Arzachena dicendo che il suo locale doveva rimanere aperto, e si sono abbattute su di lui, a parte il Covid stesso, ma una serie di tegole. Mi fa un po' tenerezza, perché adesso sento che la voce è mogia, oggi ci sono coloro che li hanno intervistati sui giornali proprio per il caso Berlusconi, che lo sentono mogio, si discolpa, dice: ma quando mai non sono stato io, non l'ho abbracciato né baciato. Come è noto, anche due figli di Berlusconi sono ammalati, probabilmente anche i nipoti, insomma il cluster lì è a Villa Certosa. Ma sai qual è la cosa che mi ha più colpito? Sono i comunicati di solidarietà. Sì. Il primo è partito da Nicola Zingaretti, cioè prima ancora di quelli del suo mondo. Sì. E poi così, insomma, quello di Maio mi ha colpito in modo particolare, perché dice: i migliori auguri, combatterà con la determinazione che lo caratterizza. Cioè c'è un omaggio politico a Berlusconi insolito, uno può limitarsi, un capo dei 5 Stelle, a limitarsi a dire: coraggio, vai avanti. E invece c'è un omaggio visto, anche tra l'altro, al suo... Visto, Paolo, tra l'altro, quanto lo hanno insultato negli anni passati, no? È stato il loro principale obiettivo. Di Maio, quando si trattò di formare il governo nel 2018 dopo le elezioni, si rifiutò di riceverlo, non volle andare a un incontro, fu uno degli incidenti che stavano per non far nascere il governo Conte 1, e adesso insomma hanno cambiato idea su Berlusconi. Berlusconi viene fuori come una sorta, adesso arriveranno gli strali, ma come una sorta di capo della destra riconosciuto, come se fosse quasi la Merkel d'Italia. Sì. È curioso questo destino per uno che ha avuto la sua storia. Sì, decisamente. A proposito di Berlusconi, fammi fare un collegamento un po' ardito, che è il seguente. Oggi leggevo in rassegna stampa questo commento di Flavia Perina sulla malattia di Berlusconi, nella quale diceva: è un uomo che ha sempre esibito questa sua malattia, queste sue malattie forse anche per farsi sentire più vicino agli elettori, e concludeva dicendo: questa vicenda del Covid, comunque vada, toglie a Silvio Berlusconi un po' di grane, tra le quali il fare una campagna elettorale per il referendum, che sul quale referendum il suo partito Forza Italia è diviso. E a proposito di referendum, come non rimanere stupiti, un po' colpiti dalla posizione presa dal candidato del Movimento 5 Stelle in Liguria, Ferruccio Sansa, la troviamo in un'intervista sul Foglio, no? Che dice: io sì, voto no. Beh, questo è un caso davvero clamoroso. Ferruccio Sansa è l'unico, ripeto, l'unico candidato in comune fra PD e 5 Stelle. Di più viene, è un giornalista, un ex giornalista del Fatto, ex insomma adesso momentaneamente sospeso. Se voi prendete oggi il Fatto pubblica un lungo elenco in cui se la prende con tutti quelli del no, compresi i giornalisti Angelo Panebianco, Alessandro Sallusti, Sabino Cassese, Stefano Folli, e li definisce nel titolo dinosauri, tromboni e Volta Gabbana. Non vorrei essere nei panni del direttore del Fatto, di un giornalista del Fatto, domani si troverà con Ferruccio Sansa e come lo definirà? Dinosauro, trombone o Volta Gabbana? Guardate che è veramente clamoroso il fatto che Sansa non ha grandi possibilità di vittoria, stando ai sondaggi, però che un candidato dei 5 Stelle e del PD voti no, insomma, sì, sarà interessante leggere le sue motivazioni. Decisamente, ci fa notare qualche ascoltatore, giustamente, che Berlusconi non è malato, è solamente positivo, giusto spunto. C'è un'altra questione sulla quale ti voglio portare, che è una questione politica. Qua tendiamo, a volte in questo paese, tendiamo a dimenticarci rapidamente le cose, mentre invece era solo maggio quando in Parlamento sentivamo queste parole. È totalmente falsa l'immagine di un governo che avrebbe spalancato le porte delle carceri addirittura per i detenuti più pericolosi. Dati alla mano. È Alfonso Bonafede, il ministro della giustizia. La vicenda è quella della quale lungamente abbiamo parlato prima dell'estate, ossia la scarcerazione dei boss mafiosi, sulla quale lo stesso governo è intervenuto con un decreto per dire, qua dobbiamo sistemare le cose. Oggi la Repubblica apre col fatto che in realtà metà dei boss è ancora a casa. Mai rientrati in carcere Pasquale Zagaria, Giuseppe Sansone, Gino Bontempo, Diego Guzzino. Sono veramente 112 su 223, nonostante il decreto del 9 maggio, quello che tu hai ricordato, avesse stabilito che devono rientrare tutti in carcere. Qui c'è qualcosa di misterioso, non vorrei sostituirmi a quei programmi della Sette, soprattutto Non è l'Arena, il programma dei Giletti, che ha dedicato ben 10 puntate a questo affare e a tutte le sue conseguenze. Però è una brutta rogna, perché bisogna capire come mai non sono rientrati in carcere. Ci fu un patteggiamento, perché poi la cosa sospetta è sempre che ci sia stato, come nel 1993, un patteggiamento dicendo approfittiamo del Covid e a questi mafiosi li lasciamo andare un po' a zonzo, anche se erano tutti, però erano positivi, e visto che tu hai fatto la differenza, essere positivo, essere esposti alla positività non è essere esposti alla malattia, e quindi vale anche per i mafiosi. Sì, per ragioni di salute. Al Ministero dicono che è stato fatto tutto il possibile per far fronte alla situazione che si era venuta a determinare, però vedremo come andrà questa cosa. Però dovevano essere loro a denunciare che questi ritardi, quando li scopre un giornale e li tira fuori un giornale, e allora le scuse sono mal riferite. Sì, in questo caso il ministero dovrebbe dare il via a un monitoraggio per il quale ti dice guarda, in realtà, e aggiorna magari settimanalmente su quanti sono usciti, quanti sono entrati e via dicendo. Ti vorrei portare, Paolo, su una questione che è una questione di politica estera e che sfiora anche, anzi tocca, la politica nazionale, perché quando si parla di Europa si parla anche di politica nazionale, quando si parla di Putin si parla anche di politica nazionale. Sentiamo questa voce, Carmelo. Damit ist sicher, Alexei Navalny ist Opfer eines Verbrechens. E questa è Angela Merkel, che dice che Navalny è stato il principale oppositore di Vladimir Putin, è stato avvelenato con il Novichok, un gas nervino sviluppato in Russia per scopi militari, lo stesso che colpì l'ex agente segreto russo Sergei Skripal, lo ricorderete, in Gran Bretagna. E qua anche l'impatto italiano è da valutare, Paolo. Certo, io ho letto l'articolo molto esauriente di Michele Pignatelli sul Sole 24 Ore sul fatto che ormai, secondo la Merkel, ci sono le prove che Navalny sia stato avvelenato con il Novichok. E che dire, un'ammirazione per la Merkel che si rivela una leader destinata a entrare nei libri di storia, però anche una considerazione sull'Italia. Putin ha in Italia due amici politici, uno Berlusconi lo lasciamo perdere per questa mattina perché è stato contagiato e quindi avrà altro tipo di pensieri, ma l'altro è Matteo Salvini. Che aspetta Matteo Salvini a pronunciare una parola chiara, a dire che, perché non è che solo la Germania è messa ha dei doveri di denunciare un caso come questo, ma anche gli altri paesi europei devono far sentire la loro voce, soprattutto, sottolineo, soprattutto nei settori e per quegli uomini politici che con Putin hanno rapporti migliori. Secondo me una parola di Matteo Salvini oggi non stonerebbe, lo uso a di proposito un eufemismo, ma insomma vorrei sentire la sua voce. Chiuderei con questo, caro Paolo, perché i nostri ascoltatori più affezionati sanno che tu hai due grandi passioni, le sardine e i reali inglesi. Ebbene, oggi apprendiamo che i nostri amici Meghan e Harry produrranno documentari su Netflix. Non so se l'hai visto, lo troviamo un po' sparso su tutti i giornali. Che dici? Sei contento? Guarda, che abbiano trovato un'occupazione? Sono contentissimo, li trovo divini. Io auspico una fusione fra le sardine e la casa regnante inglese, cioè sarebbe bene che si concertassero, che le loro iniziative. Oggi ho visto, sempre restando sul Fatto, parole molto sgraziate del direttore del Fatto, Marco Travaglio, nei confronti delle sardine, gli rinfaccia di essere andati dai Benetton, siccome si sono schierati per il no. E invece per me la mia considerazione rimane intatta, così come rimane intatta quella per i reali inglesi. Speriamo che una sardina un giorno regni sul trono d'Inghilterra. con Paolo Mieli a fare, no? Sei l'uomo che deve portarli in Gran Bretagna. Grazie, quando sarai capo dello Stato. A meno che non mi facciano re, allora in quel caso io cambierei le mie opinioni. Re Paolo Primo, non sarebbe male. Grazie Paolo Mieli, a domani, ci sentiamo subito dopo il GR delle 8, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo, come si diceva, di giovani, di lavoro, di scuola. Sì, tra gli ascoltatori che ci hanno scritto c'è uno che dice sì, tra le cose che hanno sofferto anche il blocco dell'attività sportiva. Tra poco. Le 8:33 minuti e 30 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800, vi aspetto, all'800 24 00 24. Quello di cui vogliamo parlare adesso, però ovviamente potete intervenire su tutto quello che volete, siamo qua, è su chi paga il prezzo più alto della crisi. E chi è? Indovinate un po', sono i giovani. Da una parte i dati sul mercato del lavoro che ci indicano chiaramente chi ha sofferto di più questa crisi da Covid, e dall'altra parte la questione della scuola e dell'università, e della scuola soprattutto, che deve ripartire il 14 settembre, e però in che condizioni, in che modo, con quali insegnanti e con quanti insegnanti? Come saranno messe le scuole? Ci saranno abbastanza aule? E queste sono le difficoltà che ci si trova ad affrontare. La stessa università, che ha subito un lungo stop e ha impedito una serie di anche relazioni sociali, perché è un pezzo di tutto questo, non è solamente la parte dell'istruzione, la parte della conoscenza, ma anche appunto lo stop alla vita sociale, così come lo stop delle attività sportive. Ci concentreremo oggi soprattutto sul settore appunto della scuola e su quello del lavoro. Sulla scuola abbiamo noi Giovanni Brugnoli, che è vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano. Buongiorno Brugnoli. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Che tra l'altro dalle colonne del Sole 24 Ore oggi propone il tampone obbligatorio per i professori. Ne stiamo parlando da stamattina, Brugnoli, perché ci sono dei dati impressionanti, ossia solo il 30% degli insegnanti e del personale non docente ha aderito al test sierologico. E in Campania si raggiungono livelli, abbiamo visto oggi su Corriere del Mezzogiorno, del 10%, solamente il 10%. Qualche ascoltatore ci ha mandato un messaggio nei quali diceva: guardate, il problema è che se faccio il sierologico blocco tutta la famiglia perché non so quando ci sarà il tampone. Lei dice tampone obbligatorio per tutti. Sì, è un atto di responsabilità nei confronti, come cito sul Sole, del bene maggiore che ha una famiglia, i propri figli. Quindi è un atto di responsabilità, di sensibilità, anche perché se un docente è positivo blocca non solo la singola classe ma tutte le classi in cui insegna. Quindi vorrebbe dire avere un moltiplicatore di possibili contagi e di possibile quarantena che non possiamo permettercele. Usciamo da un anno di lockdown in termini scolastici. La riapertura è fondamentale, ma è fondamentale sotto l'aspetto sociale, perché i ragazzi devono ritornare ad avere una normalità da ragazzi, ma soprattutto è un aspetto fondamentale per la crescita, la formazione dei nostri giovani che saranno i futuri lavoratori, imprenditori del nostro paese. Noi non possiamo permetterci di non occupare in maniera costante, attenta e sicura le scuole. Noi dobbiamo avere una traiettoria di medio-lungo periodo, perché fermare la scuola vuol dire fermare il futuro del nostro paese. Buon punto, Brugnoli, e adesso ritorneremo anche a questo, al tema di quella che genericamente viene chiamata con una parola inglese education, e quindi tutto il periodo di istruzione. E però con Andrea Garnero, che è economista al Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE, ci vogliamo concentrare su chi ha perso il lavoro in questa crisi da Covid. Forse un po' prevedibile, Garnero, il fatto che, dato che in Italia abbiamo il blocco dei licenziamenti, chi è più tutelato sono i lavoratori più anziani, e quindi chi perde il lavoro più facilmente sono quelli più giovani, no? Sì, buongiorno. In realtà è un fenomeno che vediamo in quasi tutti i paesi europei e OCSE. Sono sempre i giovani che sono gli ultimi arrivati, i primi a partire. Questo l'avevamo anche visto nel 2008, quindi in qualche modo nulla di nuovo sotto il sole. Sono i lavoratori con i contratti più temporanei, gli ultimi arrivati, magari con uno stage, che si avvicinano, meno protetti anche. Ovviamente se con un contratto temporaneo non erano coperti dal divieto di licenziamento. Inoltre in molti casi anche la CIG, nonostante fosse sostanzialmente per tutti, però non li proteggeva adeguatamente, perché quando il contratto arriva a scadenza e non c'è CIG che tenga. Quindi gli strumenti messi in campo, anche se generosi, straordinari e unici quasi dal dopoguerra, sicuramente per quanto riguarda il divieto di licenziamento, non sono riusciti a tappare interamente la falla nel mercato del lavoro. Da febbraio abbiamo perso quasi 500.000 occupati, e questi occupati sono in larga parte giovani. Quello che vediamo è non solo che li abbiamo persi, ma che ora avranno anche più difficoltà a rientrare, quindi saranno anche poi nei prossimi mesi e anni gli ultimi a rientrare. Quindi l'errore da non rifare rispetto al 2008 in Italia, come sostanzialmente in tutti i paesi sviluppati del mondo, è dimenticarsi di questa fascia e investire subito in realtà in creare lavoro, e creare lavoro per aiutare queste persone, i giovani che arrivano sul mercato del lavoro, quelli che c'erano ma affrontano la seconda enorme crisi della loro vita, a trovare un posto di lavoro. Sì. Blocco dei licenziamenti, si diceva, in Italia il divieto è scaduto il 17 agosto, non scadrà nello stesso giorno per tutte le aziende. Se ci sono delle modifiche, dal 18 agosto sono scattate le tre eccezioni che hanno messo la parola fine allo stop generalizzato, i datori di lavoro possono lasciare a casa i dipendenti in casi specifici, cessazione definitiva dell'attività di impresa, fallimento della società, incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con accordo aziendale o con il singolo lavoratore. Brugnoli, qua veniamo a quello che è il tema di fondo, no? Nel momento nel quale si riparte, questi ragazzi devono trovare una strada anche per un'occupabilità, no? Che non è facile. La stupisce che l'impatto che ha avuto sui giovani la crisi da Covid in termini di lavoro da imprenditore? Beh, sicuramente vedere il tasso di disoccupazione giovanile al 31,1%, quindi aumentato di 1,5 punti, è un dato impressionante perché è una popolazione veramente importante. Però il paradosso è anche che tanti imprenditori in questo momento di crisi congiunturale non riescono a trovare le figure professionali adeguatamente istruite. Vuol dire che questo mismatching che noi stiamo portando alla luce costantemente si manifesta in maniera sempre più violenta, perché se in una fase di recessione non si riescono a trovare i tecnici, i periti, i laureati necessari, quindi quelli che escono dagli istituti tecnici, dagli ITS o dalle lauree STEM, sono talmente pochi che le imprese se li, diciamo, rubano, tra virgolette, e si vede un tasso di disoccupazione giovanile del 31%, evidentemente c'è stato un cortocircuito comunicativo o comunque non si sono mai parlati i due mondi, scuole, i tre mondi, scuole, famiglie ed imprese, perché non è possibile che non si riescano a trovare le figure che il mondo imprenditoriale sta ricercando anche in questo momento. Ed è un paradosso, perché avere anche oltre 2 milioni di nicchie di coloro che hanno perso ogni speranza quando ci sono queste opportunità, evidentemente c'è da mettere, diciamo, al centro del nostro paese l'imprenditoria. Il paese è il secondo paese manifatturiero d'Europa, quindi abbiamo ancora una grande forza manifatturiera da esprimere. Abbiamo bisogno però di talenti da mettere nelle nostre imprese, talenti adeguatamente formati e soprattutto in linea con le aspettative. Sì. La scuola ha purtroppo una visione, diciamo, un pochettino arretrata rispetto al cambiamento in atto nelle imprese, e da qui il link strategico dei due mondi che si devono dialogare continuamente e soprattutto in fase, diciamo, prospettica, senza guardare il passato ma vedendo cosa serve per il futuro prossimo. Un ascoltatore ci dice: ricordiamoci, il problema degli stage per gli studenti universitari nella situazione attuale è praticamente impossibile. Altra questione sul piatto. Qualcun altro ci chiede: ma le cose positive perché non le dite? Guardate che Brugnoli le cose positive le sta dicendo, cioè vi sta dicendo che il lavoro c'è, quello che manca sono le figure per coprire i tipi di lavori richiesti. Un problema endemico italiano, non è di oggi, non è di Covid, è una cosa della quale parliamo da anni. Costantino da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io voglio fare un'osservazione. Vabbè, innanzitutto bisognerebbe cercare di salvare le aziende, perché le faccio un'osservazione io, Costantino. Provi a sistemare la sua posizione in maniera che la sentiamo in una maniera decente. Sì, sì, ecco, sono stato meglio. Senti, no, allora volevo dire una cosa. Allora, vabbè, chi ha vissuto il lockdown sta soffrendo ancora adesso, perché come abbiamo visto sono stati dati aiuti invece che mirati alle aziende chiuse, sono stati dati soldi a tutti, lasciamo perdere i parlamentari, ma anche aziende aperte, alimentari, farmacia, hanno preso bonus e quindi il problema c'è. Poi, seconda cosa, la riapertura, smart working ha azzerato completamente gli incassi delle aziende, quindi sono tutte difficoltà. Ma io volevo dire un'altra cosa adesso. Il problema legato alla positività non è il mio caso, perché i miei figli sono grandi, quindi non rischio la chiusura dell'attività, ma nel caso in cui ci fosse una quarantena per un positivo, un'azienda chiusa deve chiudere, una famiglia che ha un bambino positivo, l'azienda deve chiudere, lo Stato ci sta pensando a questa cosa, se predisporrà qualche soluzione. Intende lavoratore autonomo, sì, o per esempio commerciante. Esatto, un bar, sì. Un ristorante, cioè la situazione è già drammatica, perché come le dicevo, tra la chiusura e la riapertura in queste condizioni ha creato gravissimi problemi, e cioè la situazione attuale è drogata appunto dal blocco dei licenziamenti. Guardi, perché io, sì, prego, io vedo che tutti i colleghi che ho nella ristorazione, magari su 15 persone ne hanno fatte rientrare 4, ma gli altri 10 non rientreranno mai perché sono tutti sfloro dal fallimento. Sì. La situazione reale è quella. Sì. Costantino, guardi, il punto è buono, tanto che l'abbiamo affrontato lunedì, se poi si vuole andare a riascoltare il podcast con la ministra delle pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, le ho fatto espressamente una domanda su questo perché ci parlava della possibilità di un congedo aggiuntivo, no? Per coloro che fossero trovati positivi, i cui familiari fossero trovati positivi, eccetera eccetera. Le ho detto sì, ma per i lavoratori autonomi che facciamo? E qua ho sentito qualche tentennamento, per così dire. Garnero, forse gli autonomi sono un po' il popolo dimenticato in questa fase, nel senso che qualche bonus è arrivato, i famosi 600 euro, qualche elemento di supporto sicuramente, però dall'altra parte le difficoltà che ci testimoniava l'ascoltatore sono chiare. Certo, la crisi ha fatto venire al pettine dei nodi di cui eravamo già al corrente prima, ma di mancanze nel sistema di protezione sociale e appunto di diritti o di comunque di funzionamento delle regole generali e del mercato del lavoro in particolare per gli autonomi, che inoltre insieme ai giovani sono la fascia che continua a pagare, perché se l'altro giorno l'Istat ci ha detto che a luglio i dati mostravano un'inversione di tendenza positiva, vediamo se dura, ma comunque positiva, chi invece continuava a scendere erano i giovani tra i 25 e i 34 anni e gli autonomi. E gli autonomi continuano a scendere da anni e anni e anni, anche pre-Covid, soprattutto diciamo i piccoli artigiani, i piccoli operatori, mentre magari crescono le partite IVA e non sempre magari le vere partite IVA, ma le cosiddette false partite IVA. Quindi tutta questa questione ora, diciamo, se dobbiamo fare tesoro di una cosa nel mercato del lavoro della crisi Covid, è sicuramente come pensare, come strutturare la protezione sociale degli autonomi. I 600 euro da una parte sono stati lo strumento che ha funzionato meglio perché è andato subito a tutti senza troppi buchi, è andato a troppi, è funzionato decentemente perché come la vicenda dei parlamentari dimostra ampiamente, no? di quei 5-6 certo. Parlamentari che hanno fatto richiesta per il bonus da 600 euro, certo. Era inevitabile, io penso che data la situazione fosse un costo accettabile da pagare, è un costo, non lo difendo per nulla, ma era un costo, il rischio era di finire molto peggio che con la cassa integrazione, quindi con ritardi di mesi e mesi. Però ora certo non si potrà andare avanti così, bisogna ripensare, ma non cancellare tutto, ma ripensare il sistema. Devo dire in tutta onestà che non è solo un problema italiano, pensare alla protezione sociale degli autonomi e degli autonomi più deboli è una grande sfida in tutti i paesi, ne parlavamo rispetto al cosiddetto futuro del lavoro, il robot, l'automazione, ma ora il Covid ne ha mostrato tutta l'urgenza. Ci hanno fatto l'elemosina, scrive un ascoltatore, frustrante essere ritenuti la fortuna dell'Italia ed essere abbandonati. Brugnoli, a quel che ci diceva prima sono arrivate un po' di osservazioni di ascoltatori che io le vorrei girare, anzi due essenzialmente, su due fronti essenzialmente. A proposito dei lavoratori che non trovate, no? Dice, prima cosa li pagate poco e seconda cosa non li formate abbastanza. Cosa risponde da imprenditore? Io rispondo che ci sono i contratti collettivi nazionali che stabiliscono le regole di ingaggio nel momento in cui una persona entra nel mondo del lavoro, quindi sono tutelati in tutto e per tutto dai contratti nazionali. Sull'altra parte della formazione, noi facciamo una formazione aggiuntiva, in quanto essendoci uno scollamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro, quando entra in un'azienda li formiamo in base alle esigenze che abbiamo bisogno. Perciò il ruolo, diciamo, fondamentale in questo momento dell'impresa è che dà una ulteriore formazione a coloro che escono dalle scuole, perché essendoci questo scollamento, la scuola, mi permetto di dire, che in alcuni casi ha degli strumenti un pochettino datati. L'impresa, essendo sul mercato, deve essere sempre innovativa e quindi deve essere sempre un passo avanti. Tant'è vero che con l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro i ragazzi avevano la possibilità di vedere come cambiava il mondo del lavoro e iniziare a integrarsi in quello che potevano essere i futuri posti di lavoro. Vedere come si lavora in azienda, come cambia l'organizzazione aziendale, la strumentazione aziendale e lavorare in team insieme agli altri collaboratori. Quindi la formazione in azienda è una formazione costante che continua, e tutti i giovani, e non solo i giovani, devono, diciamo, mettersi in mente che dovranno costantemente imparare lungo tutta la propria attività lavorativa. Non è più detto che il foglio di carta che certifica il diploma degli ITS, una laurea, sia sufficiente a rimanere all'interno del mondo del lavoro. Ormai la formazione è un punto fondamentale della crescita professionale. Sentiamo Donatella da Udine. Buongiorno Donatella. Buongiorno, grazie per avermi fatto data la possibilità di intervenire. Prego. Io sono un'insegnante di Udine. Due piccole osservazioni riguardo l'argomento della scuola e della prevenzione Covid. Innanzitutto io volevo far presente la difficoltà nella mia regione ad ottenere il test sierologico. I medici di base non hanno aderito, per cui il test deve essere fatto presso una struttura ospedaliera. La prenotazione tramite il CUP a me stessa è costata 25 telefonate e ore di attesa al telefono, perché il CUP era sovraffollato. Ho ottenuto il test, lo farò il giorno 14, quindi diciamo, quindi per il giorno noi, stesso scuola... il giorno stesso, ah no, voi tornate il 16 se non vado sì, errato, ma noi no, abbiamo no. anticipato come scuola, io il 14 mattina farò lezione, probabilmente sarà a distanza, ma comunque sono già in classe. Sì. In ogni caso, difficoltà nell'ottenere il test. Secondo punto, che per me è il più importante, si parla giustamente di sicurezza degli allievi che tornano a scuola, in primo luogo, sono assolutamente d'accordo. Si parla poco della sicurezza degli insegnanti. Le ultime disposizioni hanno previsto che gli allievi possono togliere la mascherina se sono ai loro posti, nei banchi. Noi insegnanti non possiamo togliere la mascherina. La classe insegnante italiana ha mediamente 50 anni, se non di più, io stessa ne ho 57, e quindi dovremmo parlare anche della sicurezza degli insegnanti. Siamo oltre 1 milione di insegnanti in Italia, però poco si parla della sicurezza degli insegnanti. Io chiederei che anche gli allievi dovessero fare almeno il test sierologico per garantire altrettanta sicurezza a chi nella scuola lavora. Che dice Brugnoli? Secondo lei si può integrare la cosa, che, dato che proponeva allora, il tampone? Per quanto riguarda la difficoltà del sierologico, risponde la professoressa che purtroppo nel nostro paese è un problema di programmazione, sì, perché lo sappiamo da tempo che la scuola inizia il 14 settembre, il 16 o il 24, perciò è una questione di programmazione. Noi purtroppo su alcune tematiche, e la scuola è una di queste, arriviamo sempre in emergenza, ai tempi supplementari, quindi purtroppo è un dato di fatto, e mi piace che lei abbia fatto 25 telefonate, ma è una questione di programmazione paese. Sì, secondo sì. tema, sicurezza dei docenti, totalmente d'accordo, perché deve essere un luogo salubre per tutte e due le categorie. È evidente che la responsabilità dell'insegnante è maggiore, in quanto può intercettare un numero maggiore di studenti rispetto allo studente singolo. E capisco anche il fatto dell'insegnamento con o la mascherina o la visiera protettiva non è proprio una zona di comfort, ma possiamo capire che è un momento emergenziale per tutelare. Sì, in questa fase è necessario, in questa fase evidentemente è necessario, prima nella speranza che arrivi presto il vaccino. Sempre da Udine, oggi è così la giornata. Andrea, buongiorno. Sì. Prego. Buongiorno Andrea da Udine, sì, grazie sì, per la possibilità. Io sono un libero professionista con un'attività di progettazione, volevo collegarmi al discorso delle protezioni per questa categoria degli autonomi, dei liberi professionisti, che protezioni sociali alla fin fine non ce ne sono. E volevo portare la testimonianza che quando ho avuto un problema con la malattia del figlio, alla fine io non ho potuto accedere a un equivalente della legge 104 che hanno invece i dipendenti privati o pubblici. Quindi sì, bisogna risolvere la cosa, bisogna far venire fuori le protezioni sociali anche per i lavoratori indipendenti, perché siamo una grande fetta e quindi bisogna che certe protezioni vengano fuori, vengano, no, dalle tasse si debba lavoro. Pensare, si debba pensare sì, a qualcosa, dall'IRPEF, Andrea. Dall'IRPEF, guarda, perché non viene fuori dall'IRPEF? Le protezioni sociali per tutti i cittadini, allora. È una riflessione giusta, Andrea, guardi, è una riflessione giusta, aperta, ed è un po' quello che ci diceva Garnero, c'è una certa difficoltà a capire come proteggere queste categorie di lavoratori, quelle come la sua o quelle come, immagino che sia Chiara da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo semplicemente, non volevo in realtà intervenire, io volevo soltanto che se ne parlasse un po' di più. Io, nella mia famiglia è fatta di 4 persone, 3 delle quali partite IVA, e nessuno dei 3, padre e 2 figli, nessuno dei 3 ha ricevuto i 600 euro della famosi. E, sono state accampate diverse scuse come non siete iscritti alla tassazione separata, dovete mandare una mail di qua, dovete mandare una mail di là, richiamate il giorno tale, vi faremo sapere il giorno tale. Ecco, questo non so quanti casi ci siano. Allora Chiara, ha fatto bene a segnalarci, io non so quanti casi ci siano come il vostro, lo dico agli ascoltatori visto che siamo in chiusura di trasmissione, se volete segnalarcelo e se volete dire la vostra c'è anche 24mattino@radio24.it. Ci sono i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, 24 Mattino, ci trovate anche là, ovviamente, oltre che in onda come tutte le mattine alle 6.30. Grazie a Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano, Andrea Garnero, economista al Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'Ocse, e grazie a Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Gloria Guerrero e Alessandro Marco Tulli sempre in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo i nostri autori. A domani alle 6.30. Ciao.